saranno inutili parole che scriverò. Di smettere di sognare, no, non lo farò. E no, lady, che non ci penso più, ma da solo, baby, non so tirarmi su. I problemi non mi voltano le spalle, le tue emozioni volano via come farfalle. Ma volano, volano via da me. Ma volano, volano. E chissà il perché, mi pento, ma tutto qua scompare. Mi pento, ho ancora voglia di volare. E quando una canzone è come una cura e riesce a colorare ogni sfumatura, ma non si matura senza un'avventura. Mi presento come un uomo pieno di paura, perché con l'amore, sai, è come la guerra. Uno dei due prima o poi rimane a terra. Che non mi riprenda, non succederà. Che io mi arrenda, non succederà. Per rimanere a terra, non succederà. Non succederà, non succederà. Che non mi riprenda, non succederà. Che io mi arrenda, non succederà. Per rimanere a terra, non succederà. Non succederà, non succederà. Non ho più nomi che mi ricordano il passato. Ho fermato tutto per essere cambiato. Ero armato di dolore, maledetta quella sera. Mi perdoni signore, non basterà una preghiera. La vita non ho fine, è meglio che te lo ricordi. Ma inizia a crederci solo quando hai perso i sogni. Andiamo avanti, anche quando tutto frana. Ricordo la mia vita e il mio posto nella strada. Il mio cuore piange al tuo pensiero, il mio cuore esplode al tuo desiderio. E sono convinto che lei ritornerà. Ma fisso quella porta, ma non si aprirà. Non mi vedrai soffrire come una star. Non mi vedrai tornare più ubriaco da un bar. Te lo prometto, ma lo prometto anche a me stesso. Il tuo rispetto l'ho perso in quel gesto che mi ha ferito, no, ma che dico, mi ha ucciso. Ma soprattutto ricordo quel sorriso nel suo viso, stampato nella mia mente. Di quando nella vita sa tutto e non sa niente. Che non mi riprenda, non succederà. Che io mi arrenda, non succederà. Per rimanere a terra, non succederà. Non succederà, non succederà. Che non mi riprenda, non succederà. Che io mi arrenda, non succederà. Per rimanere a terra, non succederà. Non succederà, non succederà.